Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Bravissimi tutti quanti, ce ne siamo. Però siete due conduttori da Festival dell'Ovvietà. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Caro David, voglio subito dirti una cosa. Io sono senza ombra di dubbio dalla parte di quel ristoratore. Inizio come al solito con una grandissima notizia, come ormai facciamo da diverse settimane, una notizia che interessa i vertici della politica italiana. Io sono dalla parte di quel ristoratore della provincia di Treviso, non mi ricordo dove, il quale ha impedito a un signore con un cane, una signora che peraltro è il prefetto di quelle zone lì, di entrare nel ristorante, perché dice: qui i cani io non ce li voglio, non voglio i cani dentro questo ristorante perché disturbano, perché rompono i coglioni, eccetera eccetera. E dunque ha mandato gentilmente via questa signora, che poi è anche il prefetto. Adesso questo poveraccio ha anche paura di parlare, perché ovviamente tutte le associazioni se la sono presa con lui, una cosa indegna come al solito. Io non ho capito, ma se uno vuole che nel proprio ristorante non possano entrare i cani, qual è il problema? Uno sceglie un altro ristorante. Mi pare una cosa molto semplice. No, ma qui non c'è dubbio. Cioè, se io nel mio ristorante non voglio i cani, non voglio, come sono proibito l'ingresso ai cani. Ma come alberghi, come tanti locali pubblici. Poi ti voglio rendere nota una cosa che non ti riguarda, perché sei piuttosto prolifico in quanto a figli, no? Beh, però sembra che l'Italia 8 o 9 ne beh, hai due figli, intendi farne anche altri, forse, non lo so, non voglio dare notizie perché è sulla tua vita privata. Però insomma, sai, come dire, ti piacciono tu i figli? Sei informato molto, moltissimo. Beh, hai nemmeno 40 anni, hai fatto due figli, hai una buona media. Io penso, insomma, è normale, sono ritardati gli altri. Io secondo penso. Me tu sei abbastanza, da questo punto di vista, i tuoi spermatozoi funzionano moltissimo. Ma io ti ringrazio che hai analizzato. Credo, ma non è una cosa negativa che sto dicendo. Credo no, che ma ti ringrazio di che hai analizzato. Però c'è un problema. La mia capacità spermatica dalla radio della Costituzione. Ma va benissimo. Però l'Italia è un paese sterile, questo ci dice vari studi, sondaggi, eccetera, eccetera. Leggo oggi su un quotidiano che si chiama La Stampa. Conosci il quotidiano La Stampa? Tu beh, La Stampa no. Non conosci? No, magistralmente diretto. No, magistralmente non lo so, non è di mio interesse questa cosa. Diretto da no, lo pigliare per il culo, dai. Allora, una domanda a un endocrinologo che si chiama Andrea Lenzi. Che è parente di Massimiliano Lenzi? No, non credo. TV, non so. Credo. Perché gli uomini producono meno spermatozoi di un tempo? Risposta: perché inaliamo una gran quantità di sostanze che di fatto nel nostro organismo si trasformano in ormoni femminili. Cioè, stiamo a diventare tutti femmine, capito? Cioè, questo è il punto. Mi riferisco a derivati della plastica, detersivi, disinfettanti. Diciamo che l'inquinamento ambientale sta un po' femminilizzando i maschi. Cazzo, io mi sono preoccupato, non perché voglio fare i figli, ma in generale. Cioè, stiamo diventando, secondo questo tizio, questo non sa cosa dice, quale tipo di terrore propaga, diffonde in tutta Italia. Cioè, questo signore dice, dalle colonne di un importante quotidiano, che stiamo diventando tutti femmine. È una cosa incredibile, incredibile. Vabbè, incazziamoci un po' con i vitalizi. Andiamo a sentire le novità da Boneschi, la più grande vergogna italiana. Per un solo giorno alla Camera, dove forse non è nemmeno mai entrato, prende un vitalizio di oltre 2000 euro. Dopo aver insultato e bestemmiato l'altro giorno con, credo, Ballarò, sentiamo cosa è venuto fuori alla gabbia. Senta, lei prende 3.000 euro senza aver fatto nulla. Questo non è vero. Cosa ha fatto per prendere questi 3.000 euro? Ho pagato i contributi. Non ne prendo 3.000. Ne prenda 2.000. Ne prende 2.000? Perché? Okay. Perché per quale motivo lei deve prendere 2.000 euro senza aver fatto nulla? No, ho versato i contributi. Lei sa cosa sono? Quanto ha versato lei i contributi? Oltre 90 milioni. Dice di aver versato i contributi, ma cosa vuol dire che ha versato i contributi? Hai versato i contributi perché ti hanno detto che si potevano versare i contributi e così per completare la grandissima truffa, l'enorme truffa, tu versi i contributi e poi per una vita prendi una pensione nettamente superiore a quella di qualsiasi italiano. Adesso arriviamo coi Rom, state calmi, che arriviamo che ora molti dicono perché non avete aperto sui Rom, noi apriamo come ci pare. Ma cioè, poi l'apertura. Ma hanno rotto le palle tutto il giorno da quando è uscita la notizia. Scusa, però io ho molto qua da dire. No, no, ma sentiamo ancora Boneschi, aspetta, io sentiamo quando ancora. Quando introduci io sparo. Sentiamo ancora Boneschi. Ma hanno rotto le palle. Sentiamo ancora Boneschi. Lei per un giorno in Parlamento prende una pensione da 3.000 euro da 32 anni. Ma questa è una palla di cui voi siete responsabili. Non è vero che lei per un giorno in Parlamento prende un vitalizio da 32 anni? No, per niente. Dal 1999, quando ho compiuto 60 anni, sì, e ho versato tutti i contributi. Ma non hai versato tutti i contributi, amico mio, i soldi li abbiamo messi noi, ve li siete decisi da soli, questo è incredibile. Quando uno mi risponde ho versato i contributi, io divento pazzo. I contributi sono stati decisi dagli stessi parlamentari, se li sono decisi da soli, e poi grazie che hai versato i contributi, perché dopo un giorno alla Camera poi ti hanno detto guarda che c'è un trucco, se tu versi i contributi riesci comunque ad arrivarci lo stesso alla pensione, che sarà sicuramente più alta di quella di qualsiasi italiano. Vabbè, i Rom, cosa è successo? Adesso entriamo, perché i Rom comunque occuperanno gran parte di questa puntata, come è evidente. È successo che a un posto di blocco una macchina con dentro un Rom, tre Rom, no, anzi sicuramente come minimo tre Rom, di cui forse due minori, un maggiorenne, non lo so. Cioè senza forza. Non si è fermato a un posto di blocco. Ha poi falciato una serie di persone, sì, una serie di persone, un morto e feriti gravi. Questa è la sostanza. Tutto questo a Roma. A Roma, capito? Tutto questo a Roma. Allora, Mattino 5 entrata nel campo Rom, là vicino. Senti cosa è venuto fuori. Allora, scusate perché mi dicono che la nostra Sandra Marzano sta provando a entrare nel campo della Monachina. Allora, sei in diretta Sandra, che cosa vedi, che cosa stai facendo? Adesso è per quella ragazza... La ragazza dell'incidente. Mia nora, perché è un problema. Mio marito, Halilovic Bato, sentiva male e ha chiamato mio figlio, Anthony, e la mia nora. E lui gli dava la macchina, io ero dentro in baracca due giorni sulla letto, non potevo alzarmi. C'è questa tizia che pare essere parente di quelle che erano dentro la macchina, dice che correvano verso l'ospedale, poi qui naturalmente uno si può inventare qualsiasi cosa, no? Poteva succedere a chiunque, dice un altro, un'altra, sentiamo. Ci richiede la linea la nostra Sandra Marzano. €10 miliardi in Europa per l'integrazione dei Rom. Io ho detto come tutto. Ha ammazzato quella donna, poteva succedere pure a mio fratello, a mio padre, alla nora. Speriamo. Allora, fermiamoci un momento. Sandra, chi stai ascoltando stavolta? Chi è questa signora? Ma invece questo era un incidente, poteva succedere a tutti. Allora, sto parlando adesso con la figlia del signore che guidava l'auto. Allora, abbiamo con noi un signore che è stato denunciato dai Rom più volte, un europarlamentare. Scusa un attimo, aspetta, sentivo di sottofondo sentivo uno stronzo che parlava, diceva speriamo accada. No, te lo presento, sentivo l'hai chiamato la voce di uno stronzo, perché eccolo questa qui. Cosa è troppo. Ma te lo dov'è presento, qui? Eccolo non qui. Lo vedo, sono no, a Roma, io non vedo qui, nessuno. Sono a Roma, io a Milano, ma è qui collegato con noi. Buon anno, buonasera. Ciao, buonasera. Ti ha dato dello stronzo perché ah, ti era lui lo stronzo. Sì, ti ha augurato la morte a qualcun altro. Se ne frega quello che dice Parenzo. Era lui lo stronzo. No, giusto per chiarire, alle 18.44 bisogna mandarlo lì nelle, dove ci sono i maiali, lo buttiamo lì. Però scusa, no, adesso questa però, ah, no, lì dentro ci sono i maiali. No, però scusami, è vero che tu in sottofondo dicevi peccato. Cioè, l'ho sentito da te adesso. Si sentiva certo. Così, Gianluca. Faglielo risentire. Sì. No, il discorso è questo, diceva, ma noi se capitasse una cosa del genere, e quello che dicevo io è, se capitasse loro farebbero le no vittime. Hai detto speriamo, faglielo risentire, speriamo, l'audio, certo. Scusami, senso, ma c'è, guarda che io so cosa dico, faglielo risentire, Cruciani, se su. Capitasse loro sarebbe cascato il mondo, perché se fosse stato tu dici speriamo nel senso che magari fosse successo a un rom, risentire. Cioè ti sei augurato la morte dei rom, questo no, quello. Sono così cattivo, faglielo risentire. Senti, ma ormai radere al suolo il campo rom è diventato, adesso lo faccio risentire, non ti preoccupare, radere al suolo il campo rom è diventato il cavallo di battaglia della Lega di Salvini. Tu sei su questa posizione, immagino, no? Radere al suolo, no, quello che dice Matteo Salvini lo condivido pienamente. Vabbè, questo... io però farei forse una cosa ancora più di pulizia, cioè ovviamente far uscire tutti i rom che ci sono, sì, e poi dopo gli darei anche fuoco, così tiriamo via proprio tutto, cioè tu dici fare uscire i rom con i megafoni. Tu dici con un megafono far uscire i rom dal campo, no? No, farli uscire. Come li fai uscire? Con un megafono? Con un megafono, no, dici, vabbè, pronto, certo, usciamo e tutti. Poi controllare che non ci siano più, poi gli diamo fuoco il campo rom, così non vengono neanche più e non portano via niente. Pazzesco. E eliminiamo anche i problemi di magari sanitari che ci pazzesco sono, perché con il fuoco si può dare fuoco tutto al campo. Ormai non c'è più. No, però aspetta, ormai sta dicendo non un'altra... c'è più. No, aspetta, no, scusa, ormai non c'è più niente. Capito? Sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo un'altra cosa. Ha detto perché quando tu sfratti la gente che non ha diritto dalle case popolari, poi dai fuoco alle case popolari, ma ormai siete alla follia, ma no, siete chi? Io non c'entro. Aspetta, no, ma non tu. No, però questa aspetta, la proposta. Parenzo, non insegnarmi a fare il sindaco, che lo faccio da 21 anni e sono dare votato fuoco da 21 anni. Ma chi è che dà fuoco a un campo? Le case popolari, c'è c'è una graduatoria. No, però lasciamo perdere le case popolari. Se loro non fanno le domande è inutile. Non è no, che però tu stai aspettare dicendo una cosa, Gianluca. Cioè, sì, non basta, diciamo, la ruspa è un metodo, no? Cioè, quello sì, che uno dà l'avviso di sfratto a un campo rom, da fra 60 giorni, se voi non ve ne andate, sì, arriviamo con le ruspe e via tutto. Tu dici sì che ci può essere anche un altro metodo. Sì. Cioè, avvertire i rom. Il metodo Buonanno. Metodo Buonanno, che soprannominiamo metodo Buonanno. Diamo sì fuoco a un campo rom con i rom fuori. Questo è il no, metodo. Cioè, no, prima, ovviamente, chiariamo. Avvertire no i rom, avvisare almeno questo, sì, avvisiamolo, controllare sì che non ci sia più nessuno, sì, ovviamente, e poi dare dargli fuoco, così da una parte saniamo anche sotto l'aspetto igienico-sanitario. Tu dici, cosa vuol dire? Si purifica tutto, dici. Si purifica tutto, perché ovviamente, guardate tutto le immagini di Canale 5 di stamattina, questi si lamentavano dei campi rom, sì, e c'era fuori una montagna di immondizia, ma parlamentare che dà lì fuoco, ma cioè vuol dire conto che, ma uno va a Torino la stessa cosa, cioè tu dici che sono degli zozzoni cioè si è passato dalla metaforica ruspa al dar fuoco, capito? Porcherie dappertutto, immondizie dappertutto, cioè sono zozzoni, sono zozzi, ma sono buttano tutta la roba in giro così, ma veramente, allora fermi tutti, questa roba qui portiamo via tutto e poi quello che rimane gli si dà fuoco, così non vengono più. Allora c'è il traffico, caro Parenzo, ma perché sei così incazzato, Parenzo? Sei abilito parlare in questa, ma tu puoi parlare, puoi fare quello no, che no, vai. Volevo sentire fino a che punto arrivava il degrado umano, ma andiamo avanti, andiamo pure a dare la pubblicità, il traffico, la c'è borsa, il traffico, che devo pur fare di non parlare, no, manda ma c'è tutto il traffico, ma manda che devo fare, borsa, traffico, ma c'è il perché traffico, perché non mandi anche il bollettino meteo, mi impongono manda traffico, anche il bollettino c'è meteo, il signore... c'è il sole, non rompete i coglioni, no, tutto il weekend ci sarà il sole, basta, no, questo chiuso è il traffico, meteo, che c'entra il sole, non c'è traffico, c'è traffico perché la gente va in macchina, è evidente che c'è traffico, fine, no, ma tu su questa ragione adesso non ce la prendiamo. Cosa succede? No, il traffico? Però, no, strade a quest'ora le strade sono intasate. Lo sanno anche i sassi che le strade a quest'ora sono intasate. Perché la gente torna dal lavoro e ascolta la Zanzara. Non serve. Basta. Con no, ma su questo voglio non... parlare con Buonanno e hai ragione. Fare il culo. No, mi non, sono hai, non hai torto. Su, non hai torto. Però c'è io... il sole, il weekend, il sole. E vabbè, uno starà a casa se, cioè, se non c'è il sole. Che tu dici, guarda le previsioni meteo dal telefonino. Su un giornale, sul telefonino. Che cosa me ne frega? Ma che c'è il sole, il pioggia. No, ma su questo hai ragione, però ma il signore che ci sta aspettando adesso per no, il traffico non c'entra lui, no, nulla, no, coraggio, ma lui no, ma io lo abbraccio. Lo abbraccio fortissimo, abbracciamolo insieme. Abbracciamolo insieme. Ma io ti voglio insieme anche bene, non è per lui. Io ti voglio bene. Traffico. Ogni volta che la discussione si anima, tu fai tutta questa. Traffico, ti voglio bene, ciao. Traffico, il traffico è il problema. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Siamo qui, popolo della radio, con Gianluca Buonanno in collegamento non so da dove, se dal Piemonte o da Bruxelles. Piemonte. Allora, la cosa incredibile è che adesso c'è la caccia al rom investitore a Roma, no? Però pare che potrà cavarsela con la messa alla prova, in particolare se poi sarà minorenne. Però è evidente che in questi casi, anche se poi quella macchina la portava, la conduceva un maggiorenne, diranno che è stato un minorenne, eh? Cioè, su questo non c'è il minimo dubbio, caro Parenzo, questo bisogna dirlo. È evidente, diranno lo portavo minorenne e se la caverà, insomma, in qualche modo se la caverà. Dai. Ma è quello che ha detto anche la signora Canale 5. Cioè, ma poi uno è malato, no? C'è un posto di blocco, non ti fermi, vai a 180 all'ora, investi delle persone, ne ammazzi uno, se vanno all'ospedale e quello malato riesce a scappare. Ma questa roba qui, ma chi è che ci può credere? Cioè, questi veramente, ma che bisogna fare secondo te? Sono patentati nel dire balle. Che bisogna fare secondo te? No, allora io la seconda proposta, oltre a dare fuoco ai campi rom, senza i rom ovviamente, come ho detto, sempre senza i rom, sì, certo. È quello di, per ordine pubblico, di togliere via la patente a tutti. E cioè, se scusa, sono minorenni e guidano la macchina, per tutta la vita la patente italiana non ce l'avranno più, mentre quelli che rom, ci sono già delle leggi le per questo, per un periodo particolare via la patente, leggi poi si comportano bene gli si ridà la patente magari tra un po'. Cioè, stai parlando di leggi speciali per i rom, questo è il concetto, queste sono leggi speciali. Per quelli che commettono dei reati. Ma ci sono, no, però, già in questo caso, ma tu hai detto bisogna togliere la patente per ordine pubblico, bisogna togliere la patente ai rom. In questo caso c'è un problema che questo. Non tutti i rom e zingari sono dei delinquenti, e questo sono io il primo a dirlo. Beh, insomma, ma è altrettanto vero che gran parte dei rom e degli zingari delinquono e vengono presi. E dunque tu dici, a scopo preventivo bisogna togliere la patente a tutti i rom. Questo è il punto. Scopo preventivo, ordine pubblico, cominciamo a mettere un puntino, no, su. Però ha ragione Parenzo quando dice che è una legge speciale, cioè dei provvedimenti speciali per un'emergenza. Se fossi il ministro degli interni, farei provvedimenti speciali, anzi, fossi già anche solo sindaco di Roma, sì. I campi rom non esisterebbero nella città di Roma. Uno. Secondo, su determinate cose metterei dei paletti ben chiari. Parenzo, non ti sento caldo, però. Non ti direi caldo. E chiaro, ma, e tondo, guarda, come stanno le di fronte a chi specula su questa storia, che è veramente, semplicemente una vicenda che è incredibile, se per te è semplicemente una vicenda di cronaca, è basta. Una drammatica vicenda di cronaca, sì. Con protagonista, cioè, di Roma, no? Tutte le altre, però È una drammatica su cui anche quegli idioti che da ieri mi scrivono: che cosa dirà stasera alla Zanzara, visto dei rom? Idioti che mi avete scritto: che cosa, li difendi? Ma posso difendere un assassino che ha ucciso una persona e ferito altri 8 e che non si ferma un posto di blocco? Però tu dici, ma di che cosa parlate? La maggioranza dei reati la fanno loro. Tu dici che può succedere a chiunque, tipico dei rom, ma certo che può succedere a chiunque, ma la maggioranza dei reati la fanno loro. Dopodiché, invece di fare le vittime come fanno, non chiedono ma manco non c'è scusa, da fare le vittime, c'è da prendere i responsabili. Pare che i parenti abbiano chiesto scusa, ovviamente stanno. Ma perché qualunque parente di italiano, ma scusami, ma quando ci sono madri che uccidono il figlio, però qual era o delitti terribili, le madri non difendono il figlio alle volte? No, non è successo anche per gli italiani? Ascolta, di che parlate? Siamo in Italia, no? E quindi la madre italiana, le persone per bene, quelle no, e ce li teniamo. Però scusami Gianluca, qual era l'altra proposta, quella dei gommoni, cioè, che mette, ho sentito da qualche parte quella era una battuta rispetto a quello che hanno detto, ma cioè, visto che arrivano quei con i gommoni clandestini, sì, carichiamo un po' di loro e li mandiamo dall'altra parte, così magari non ce ne mandano più. Cioè, un po' di rom, dici? Cioè, chi è delinquente ovviamente, perché, cioè, ripeto, i rom dentro i barconi, dice, al posto prendiamo quei barconi, arriviamo, sarebbe mica male, sarebbe una bella idea, però ovviamente chi delinque, siccome chi delinque, non è che fai, cioè, che pigliamo i delinquenti, zingari delinquono, allora dici, purtroppo il 90% delle statistiche, so che qualcuno ti vuole portare in tribunale per quella frase feccia della società, rom. Sì, l'ho ridetto oggi, cioè io ridico che hai detto i rom sono la feccia della società, non è che hai fatto distinzioni tra rom violenti o no, hai detto i rom sono la feccia della società. Sono la feccia della società, ovviamente riferito a coloro che l'immondizia la buttano tutto lì, come abbiamo visto oggi, i bambini li mandano rubare o rubano a loro stessi, oppure hanno intestato, ma tra 24 macchine, 24 macchine, sì, quello è stato... quello che ma come si fa, ma quella è una presa per il culo. In più c'è un paese come l'Italia che non riesce neanche a capire quando uno ha intestato 24 macchine che forse c'è qualcosa che non quadra. Senti una cosa, ma tra immondizia e rom che differenza c'è? Per certi aspetti zero. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Ciao, 800 24 00 24. Ma sono io! ti sculaccio, sai, Parenzo, ti sculaccio forte forte. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it. Vi presenta La Zanzara. Ma perché voi due e tue Parenzo state lavorando? No, tue Parenzo sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro questo? Beh, guarda, caro Capanna, noi magari spariamo cazzate, questo sicuramente. Però non avremo il tuo vitalizio, il tuo doppio vitalizio contro cui hai fatto, contro la cui riduzione del 10%. Da uomo di sinistra, quale sei sempre stato, che si batte contro la povertà, eccetera, eccetera, hai fatto ricorso, cioè tu ti opponi a una riduzione del 10% del tuo doppio vitalizio da 5.000 euro al mese, chiaro? A proposito di vitalizi, popolo della radio, 800 24 00 24, sempre un numero per chiamarci. Vi proponiamo due esempi. Il primo è di un ex comunista, si chiama Coccia o Coccia. Coccia è il fidanzato della Pezzopane, questo si chiama Coccia. Coccia. Allora, questo Coccia, ex Partito Comunista, prende 3.800 netti, ma la cosa più incredibile è che questo Coccia, essendo un signore piuttosto anziano, oltre 80 anni, ha incassato fino adesso, tra la differenza tra quanto ha versato e quanto ha preso, è intorno al 1.700.000 euro. Ci racconta questo signor Coccia, che il sistema dei vitalizi è assolutamente normale, che serve a rendere dignitosa la vita proprio negli ultimi anni e che, insomma, i vitalizi sono intoccabili. A mio parere sono intoccabili perché l'attuale corresponsione consente a centinaia di ex parlamentari che sono poi in età avanzata, spesso malati, di provvedere a se stessi. Perché una cosa che si deve tenere presente è questa, che chi ha fatto 2, 3, 4 legislature al ritorno alla vita normale, sì, non trova più alcuna possibilità di impiego, di lavoro. Ma questo l'abbiamo capito. Ma io divento pazzo per questa cosa qua, divento pazzo. Siccome uno ha fatto, tu la pensi così, Parenzo, la cosa incredibile è questa. No, che tu la pensi, sempre... siccome uno ha fatto 3-4 legislature, e sti cazzi! E chi se ne frega! Io non difendo il sistema, anzi, va cambiato, i vitalizi devono sparire, infatti non esistono più i vitalizi in quanto tali. Dico che molti di questi, che sono uno scandalo, quello di un giorno e quant'altro, però non è che hanno rubato loro. Il sistema li ha messi nella condizione di poter fare questa cosa, no, di quindi fare una truffa ai danni dello Stato. No, una truffa legalizzata. Non si può mettere sullo stesso piano il signore che ha fatto un giorno solo con, ad esempio, l'aggressione ad Achille Occhetto. Oddio, no! Ma che c'hai con sto, che sei parente di Occhetto? Ma che te frega di Occhetto? Adesso tu hai detto, fatto Occhetto battuta, ha detto che i soldi gli servono molti... che i soldi gli servono per mantenere i figli disoccupati. Ma anche se gli servissero, non sai quanta gente disoccupata c'è. Ma lui può fare quello che gli pare con quei soldi guadagnati onestamente, quelli di onestamente, è una truffa legalizzata. E questi qua sono complici di una truffa. Allora, c'è un altro signore che si chiama Giulio Santarelli, che abbiamo sentito pure noi, il quale prende, credo, intorno ai 5.000-6.000, no, anzi 2.850 dal Parlamento, dalla Regione 4.144, in totale 7.000 netti, capito? 7.000 netti, abbiamo sentito anche noi. Lui dice che è un'inezia, non è un privilegio. Certo, se uno mette questi soldi e fa il bilancio generale dello Stato, certo, questa è un'inezia, ma se dovessimo ragionare così, allora rubiamo tutti un po', va? Rubiamo. Io non dico che rubano, ma sono complici di una grandissima truffa, perché, ripeto, i contributi sono bassi rispetto a quello che prendono, sono privilegiati, non sta scritto da nessuna parte, in nessun paese del mondo esistono i vitalizi soprattutto vitalizi di questa importanza, di questa dimensione, per i politici. Cioè, non è che tutti i paesi hanno i vitalizi, non ce l'ha nessuno praticamente. nessuno ti farà sorgere qualche sospetto questa cosa, no, o no? Siamo perfettamente e allora d'accordo. Basta, forza, Santarelli. Io dico... Santarelli. Ti deve dire per quale motivo tutto il balambaradan delle televisioni italiane e dei giornali è su questa questione, che è una inezia. Ma se è un privilegio, un vitalizio è un privilegio. E lei le prende. Ma chi l'ha detto? E rispetta a me. Ma non è un privilegio, ma questa. Ma come no? Ma questa è la vostra opinione. Ma chi prende 5.000 euro dopo 13 anni di lavoro? Ma questa è la vostra opinione. Bene, 800 24 00 24, Maglio, provincia di Lecco. Senta, Lecco. Vai Maglio, vai. Volevo rispondere a quel genio di Bonanno. Sì. Perché lui brucia i campi rom dopo aver tirato fuori gente. È vero, sicuramente non vuole uccidere nessuno. Ma siccome poi i rom sono gente che poi si va a ricomprare tutto, non è che magari rinizia a rubare, come loro dicono, e quindi svaligerà case, ammazzerà qualcuno perché qualcuno si oppone che loro cerchino di riprendersi la roba che gli hanno bruciato. Io dico che è un genio, demente tale che dovrebbe essere. Secondo te una follia totale quella che ha detto Bonanno? Ma peggio, dovrebbe essere rinchiuso, altro che insegnargli a fare il sindaco, va rinchiuso. Perché? È un'istigazione a delinquere, Va bene, andiamo a Roma, Carlo, vai. Carlo. Cusani, Parenzo, buonasera. Dimmi. Allora, intanto una premessa, perché così sgombriamo il campo da equivoci. Io ho adottato tre figli, quindi praticamente posso essere tacciato di tutto tranne che di razzismo. Tra l'altro li ho voluti più scuri possibili, proprio per... No, se li hai voluti più scuri possibili, no. È razzismo al contrario, scusa, dovevi prenderti... No, diciamo, non è che, vabbè, te sei adottato il Negretto, non ho capito, cioè volevi il Negretto? No, assolutamente, ho adottato tre. Capito, ragazzi. Ma questa pure è una follia, cioè, secondo me dovrebbe essere... La mia era una battuta per portare, per ragionare un po' per paradossi. Vabbè, allora... Però, allora, io abito in una zona di Roma che si trova in linea d'aria a 2 chilometri dal famoso campo della Barbuta. Io non conosco so dove benissimo. Abiti Parenzo. Lo conosco benissimo quel campo, perché allora, sono stato tempo fa. Allora vorrei gentilmente fare un 15 giorni, 20 giorni, un cambio casa col signor Parenzo. Poi trovarsi a vivere 20 giorni continuamente con gente che ti svuota il cassonetto davanti a casa e tu cortesemente gli chiedi, guarda, dopo che hai trovato quello che devi prendere, gentilmente rimettimi dentro il tutto, ed avere continue minacce e vessazioni da parte di questa gente, furti in casa. Ma questo è il punto che Parenzo non capisce. Perché è bello ragionare qui dallo studio di Mia Monte Rosa a Milano, da casa mia, che certamente non è vicino al campo rom. È bello ragionare a via a Prati, dove abiti tu. Vicino ai campi rom è un inferno. Vicino ai campi rom è un inferno. Via della Spiga, la gente non abbia furti in casa. Ma non è la stessa cosa. Ma come fai a dire che è la stessa cosa vivere accanto a un campo rom e vivere a Via della Spiga e ogni tanto subire un furto? È ridicolo. Questo dico semplicemente, che anche perché io sono per tenere in piedi i campi rom, no, la soluzione va trovata da un punto di vista non politico. Non c'è nessuna soluzione, sono cittadini italiani, si cercano la casa come tutti gli italiani. No, io lo figuriamo se voglio dare fuoco, ma sei matto, Carlo. Dimmi, allora dove vivi tu accanto a un campo rom? Che ti succede? Spiegami che ti succede, ti prego. Allora, praticamente la cosa più stupida che succede è che quando questi signori decidono di squagliare, come si dice a Roma, i cavi che vanno in giro a rubare, perché spesso e volentieri la galleria del latte rimane anche al buio. Noi dobbiamo praticamente chiudere le finestre, perché poi sai benissimo tu che sei di Roma che il vento dominante di Roma è il ponentino. Noi siamo a destra del campo rom. È quello che succede. Quindi, anche a Montesano, Enrico Montesano, che ce l'ha raccontato più volte, con i fumi che arrivano dentro casa. Ieri mi sono trovato per pura coincidenza a passare accanto al campo della Monachina, praticamente stavano facendo lo stesso giochetto e in a uno può permettere nel 2015 che la gente bruci della roba in mezzo alla strada? Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di illegalità pazzesche che vengono tollerate da anni, e questo è il punto che fa incazzare. Io non è che ce l'ho per forza con i rom, a me non mi interessa, però vengono tollerate delle illegalità incredibili. Cioè, non è, secondo me non esiste che in Germania, in un campo rom, a un certo punto la gente si mette a bruciare della roba in mezzo alla strada. Ma è una cosa improponibile dappertutto. Allora Carlo, raccontami un'altra cosa, delle difficoltà che incontri, cioè i problemi che ci sono in quel quartiere, dimmelo. Con una possibile soluzione, intanto, per cercare di rompere questo cordone ombelicale di illegalità. No, la monnezza, lascia perdere la soluzione, che ci frega, la monnezza, allora, che no, succede? No, allora, io ti dico solo una cosa, quando sono rientrato in Italia con due dei tre figli, perché poi il terzo è arrivato dopo 2 anni, con ulteriori sacrifici, spese economiche, perché erano allora, tre fratelli. Andiamo a sintetizzare, vai. dopo una settimana, entro una settimana, io sono stato obbligato giustamente dallo Stato italiano a portare questi figli in una scuola a trattare i ragazzi di 10-12 anni. Nella scuola di dei miei figli, dove vanno, praticamente ci sono dei ragazzi rom che hanno due giorni, tre giorni massimo di frequenza all'anno. Allora cominciamo ad andare presso questi campi, togliamo i figli a questa gente, li mettiamo in delle belle strutture e li obblighiamo a studiare e ad integrarsi. Va bene Carlo, grazie. Biagio da Roma, vai Biagio, un altro ascoltatore da Roma. E invito, domani ci sarà, credo domani o sabato, una manifestazione di vari quartieri romani sulla situazione dei Rom. Molti dicono che si tratta di una manifestazione di odio nei confronti di Roma, non lo so, voglio però capire da questi comitati di quartiere che cosa succede, quali sono le cose che vengono fuori, i problemi, perché non tollerano la presenza di questi campi Rom. Biagio, vai, chiamateci, da tutta Roma. Biagio. Pronto, ciao. Dimmi. Ciao, senti, io non sopporto più i zingari, sono una piaga. Ha ragione Bonanno quando dice vanno. Che vuol dire la piaga? Che faresti tu? Ma io li caccerei via tutti. Dove? Ma come? In che modo? Ma dove soprattutto? Nei paesi loro, non mi interessa dove, basta e vanno via dall'Italia, perché non è possibile. Ma molti sono italiani, ti faccio presente. Fa niente, vanno via, sono delinquenti, se sono delinquenti vanno cacciati via. Poi lo Stato deve pensare a... Ma perché dici non ne puoi più? Perché oggi stavo al largo dei Colli Albani a Roma, stavo uscendo dalla metropolitana, un vecchietto col marsupio. Due zingari l'hanno accerchiato e gli stavano aprendo il marsupio per prendere il portafoglio. Beh, quello succede anche, diciamo, ci sono anche ladri italiani, loro, borseggiatori. Però sono sì, è vero che sono magari più visibili, però i borseggiatori. Perché? La stazione Termini, perché è piena di zingari? Perché lo Stato non fa qualcosa? Invece mette i militari su via Nomentana che ci stanno le ambasciate, a presidiare le ambasciate. Tu dici non li sopporto, dunque la soluzione qual è? Cacciarli tutti. Cacciarli tutti, sì. E campi tutti. Rom da bruciare? Bruciare sicuramente. Sicuramente. Poco, proprio, ma con gli zingari dentro. Eccolo là, eccolo là. Sì. Eccolo, ma questo è colpa pure dello Stato italiano che non fa niente per tutelarci. Eccolo lì. Cioè bruciare, alla fine vuoi bruciare i Rom. Siamo arrivati, sì, ci siamo arrivati. Riaccendiamo pure i forni. Se sì, pensavo, ecco, pensavo arrivasse attorno alle 20, invece è bastato pochissimo. Alle 19.30 l'idiota da non so dove, come si chiama questo? Sì, sono Biagio da Roma. L'idiota Biagio da Roma. Dice che bisogna riaprire i forni e bruciare i Rom. 19.31, benissimo. Bravo, è arrivato. Okay. Cioè tu vuoi estinguerli in sostanza, ha lasciato i Rom. Il suo numero di telefono, estinguere i Rom. Tu Valenzio parli bene perché non te vengono dentro casa. Poi quando perché io non giro con la metropolitana, no. Io non giro, ogni giorno con le metropolitane anche la sera. Non vai a Cinecittà con la metropolitana, fai quattro fermate fino al centro di Roma, diciamo. Quattro fermate vabbè, fai 4-5 fermate. Comunque adesso non sto mettendo in discussione quello che fai le fermate della metropolitana che frequenti. Fermi tutti, abbiamo la borsa, che c'è adesso? La borsa. Ma guarda che siete veramente strani. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Siamo al top, siamo veramente al top. A grande richiesta, ragazzi, alle 19.38, popolo della radio, vi offriamo la solita rubrica, quanto mai pertinente, Parenzo, questa volta, In realtà non c'è ancora la questione dei Rom, però Radio Padania! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Un ascoltatore parla delle nozze gay, Radio Padania. Cos'è questo squallore? Allora sappiamo che il matrimonio è un sacramento istituito dallo Spirito Santo, quindi non esistono matrimoni, non esistono nozze di deretani che Dio ha creato per defecare. Beh, devo dire la verità che le nozze tra deretani non è male, le nozze tra deretani è un Vespasiano, non è una radio. Ma io vorrei, è un Vespasiano, io vorrei tutti questi ascoltatori di Radio Padania, quando finirà Radio Padania, io li voglio tutti con me. Ma non ti preoccupare che già tutti, ci sono. Tutti, ma non tutti, ti preoccupare, tutti, già tutti, ci tutti. Sono. Allora, a un certo punto, sempre un ascoltatore insieme all'amico Varin, al tuo amico Varin con cui ti sei fatto una foto, Varin, conduttore di Radio Padania, sì, sì, ma dice: manca poco e Dio interverrà. Perché Dio non farà guardare, interverrà, no? E non manca mica tanto, prima o poi. Grazie, cara, e io aspetto sempre che intervenga se ci chiama. E dopo gli ascoltatori è il turno del conduttore, signor Varin. Varin, il capo. Senti un po', Vespasiano. Checche. Senti. E non ti parlo delle checche, sono quelli del Gay Pride, quelli che si baciano, si toccano in mezzo alla strada per far vedere: guarda, siamo due uomini e ci tocchiamo il pisellino, siamo due donne e ce la tocchiamo e ce la sfioriamo. No, io equiparo questa gente alla gentaglia, gli uomini praticamente che fanno sesso con una donna in mezzo alla strada. Allora, e scusami, se un uomo non può fare sesso con una donna in mezzo alla strada, perché due uomini e due donne glielo lasciano fare? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Ancora Varin. Servi di Roma fuori. Il mondo ormai non è più nostro, è proprio loro, è di loro, dei gay, delle lesbiche e degli immigrati. Bella e libera. Guardava. Adesso, amico mio, il mondo. Questa radio è come quei bagni delle stazioni di servizio. No, dai, sì, sì. In alcune stazioni di servizio particolarmente degradate, in luoghi depressi, tu trovi dei bagni. Quei bagni particolarmente sporchi, sai quei bagni dove si scrivono alle volte sui muri, no? Con i numeri di telefono, pigellone, chiama il numero, è uguale. È un Vespasiano, non di provi, ma proprio di quei posti degradati, abbandonati. È un Vespasiano. Esageri come al solito. Vai, Paolo da Novara. Paolo da Novara. Troppo l'inobilito. Paolo da Novara, dai. Paolo. Pronto? Andiamo, forza. Mister Cruciani. Ciao Paolo. Ciao. Dimmi. Volevo parlarti di Rom, che c'è lì Parenzo che li difende sempre. Dimmi. Mi piacerebbe che lo pizzichi un po' qualche volta, poi ci pensa a parlare bene. Perché c'è neanche il 5% che sono a posto. E poi mi piacerebbe che gli ammazzano una figlia, con rispetto parlando. Grazie Paolo. Grazie. Adesso, addirittura Paolo. Ti auguri che i Rom ammazzino una figlia a Parenzo? Questo francamente mi sembra esagerato. No, gli auguro, però mi... Lei dice dovrebbe provare una cosa grazie, del genere. Grazie, una cosa molto, del genere, grazie, poi vediamo. Grazie. No, dai, su. Sai cosa c'è? Che io gli do ragione, buon anno. Bisogna spazzarle via, la colpa delle istituzioni. Cioè, spazzarli via in che modo? Qui dobbiamo sempre intenderci su questa cosa qua. L'ascoltatore allora, di prima ha detto che vanno bruciati. Via dall'Italia. Vanno messi nei forni. Dei politici. Vabbè, che devono fare con sti rom politici? Spiegami. Mandarli via. Mandarli via come? Bruciare i campi rom, ucciderli, metterli... Sì, allora, io ti spiego. Tu cosa faresti se tu governassi il paese, Paolo? Governassi una città, un paese, guarda, cosa faresti? Io sono sovente in Texas. Là in non Texas. Ci sono extra, non c'è nessuno che ruba, come mai? Nessuno, no, ma allora cosa si fa? Tutto è aperto. Cosa si fa? Nessuno ruba, sono le tu cosa le faresti se governassi? Cosa faresti? Texas. Spiegami. Io vi invento solo una cosa. Vi ricordate tanti anni fa a Waco, quando i Ranger bruciarono tutta quella setta satanica? E allora? Idem, bruciare. Ah, bruciare. Cosa okay, fa lei in Texas esattamente? No, aspetta. Dopo andare su in Texas a vedere se fanno quelle robe lì. No, ma scusa, cosa però, fa lei in Texas? La setta satanica è che ammazzavano. Quelli hanno attaccato perché bruciavano la gente. Cioè, perché ammazzavano la gente. Non discutere di mi sono confuso. Sì. Mi interessa sapere cosa fa questo in no, Texas. No, ma è interessante invece. Secondo Paolo, andrebbero. C'è cioè un campo rom. Uno lo prende, un attacco con la polizia e si brucia. Così si fa? Sì. No, ma sì, io a domanda. A domanda c'è una risposta. Beh, come le regole? Ci vogliono regole. Lei... Ci sono, fanno schifo. Non ho capito. Fanno schifo i politici, bisognerebbe mandarglieli un po' a loro. Vabbè, d'accordo, però scusa Paolo, tu dici da una parte ci vogliono le regole, dall'altro bisogna bruciare i rom. Sì. Beh, non è le due cose proprio. Tu dai un esempio. E vedi che tutti si mettono a posto. Naturalmente ci sono anche delle brave persone, si mettono a lavorare. E come si fa? Scusa, se uno brucia un campo rom e muoiono delle persone, che succede? Vabbè, capita, dai, su, chi se ne frega. Il 95% ce l'hanno nel DNA. Quindi, non hai quindi non è un problema quel per cui 5... quelli che muoiono, cioè, quelli non delinquenti che muoiono bruciati, tu dici, vabbè, può succedere. Può succedere. Può succedere, diciamo, come si effetto dice in gergo, collaterale. Effetto collaterale, sì. Cioè, effetto come mai in Texas non succedono queste ma cose? Che cosa sei un modello? Che cazzo fai, Paolo da Novara, in Texas, tu? Cosa fa? Lavoro, posso sapere cosa lavoro, fai in Texas, tu? Non mi faccio un cassetto, perché lì Paolo devi lavorare, da Novara, capito? In Texas. Lì devi lavorare. E cosa fai tu in Texas? Fammi il mio lavoro, non fai. Ti interessa. Cioè, lì che lavoro fai in Texas? Cosa fai? Il cowboy, cosa fai? Non c'è delinquenza in Texas. C'è tutto aperto, chissà come tutto mai aperto, c'è tutto aperto, le case aperte, e nessuno ti viene aperto. A rubare in casa. Nessuno viene in Texas, non c'è neanche no. Un furto in Texas. No. Perché se viene a rubarti in casa, viene dopo le 10 della sera, dopo che non si fa riconoscere. Sì. E dunque? Lì ci sono le armi, gli spari, arriva lo sceriffo, scrive è tutto a e posto. Porta via. Tu il Texas l'hai visto in un film, al massimo. No, io ci vivo, ma, hai ecco, capito? Ma, vai in Texas, amico. Perché allora perché sei qui e chiami ora? Torna in Texas e non rompere le balle. Esatto, no, io... Vai, nessuno no, ti reclama. Non rompere i coglioni. Fidati tu che nessuno ti reclama. Nessuno ti trattiene. Unico caso di fuga dei cervelli incentivata. Vai, amico mio, vai. No. Tu non devi chiacchierare per un cacchio, hai capito? Tu devi venire, provare a venire a vivere lì, solo ti dico tanto. 10 giorni e capisci com'è la storia, hai capito? Vabbè, ciao, Stanislao, provincia di Bari, vai. Pronto? Dimmi. Ciao, Bertuzzani. Senta, io volevo intervenire sempre sui Rom e voglio dire che sono d'accordissimo con Bonanno per quanto riguarda bruciare i campi Rom, però aggiungo dell'altro. Sì, aggiungiamo. Li mettiamo su bei carri, treni merci, carri bestiame, quelli chiusi, sì. E li mandiamo ad Auschwitz. Sì, ma Auschwitz è chiuso, ti voglio segnalare. Cioè, sì, cioè... li apriamo perché poverini, gli ebrei non avevano fatto un cazzo e li hanno massacrati. Io a questi li manderei proprio i campi rom ad Auschwitz, sì. E ci mandiamo anche... Parenzo, così ce lo vediamo questo, con i coglioni. Questo, scusa, amico mio, adesso non puoi dire a Parenzo che è ebreo, lo mandiamo ad Auschwitz e riapriamo Auschwitz. Abbi pazienza, dai, su. No, è da fare perché Parenzo. Ma come da fare? Io pensavo merita, che dicessi no. Merita, che, no, ma ho capito. Merita, tu, io pensavo che tu. No, scusami. Stanislao. Lui non vive in Italia, lui è un extra comunitario. No, ma io non è che è nato a Padova, è italiano. È italiano. Scusa, Stanislao, abbi pazienza. Tu hai detto una cosa, dobbiamo riaprire Auschwitz, giusto? Aspetta. Aperte le fogne, cioè, ma stai tranquillo. Dobbiamo riaprire Auschwitz, giusto? No, beh, intanto abbiamo aperto le fogne. Ma con i forni? Bisogna riaprire con tutti i forni? Certo. Cioè, no, ma io dico, io domando perché. E questo chiama, no, per chi si fa. No, chi ma non io chiedo, capito? Io chiedo. Questo ha telefonato, ha lasciato il numero di telefono, nome e cognome, e lo abbiamo, come tanti, come tutti, richiamato. Cioè, non è che è intervenuto automaticamente. No, cioè, lui no. Dice. Sì, è intervenuto, ma si è qualificato, non sì, è un anonimo. Questo voglio dire, non è un anonimo, no? Sì, no, certo. Allora, dietro... non ho capito. Allora, dunque, riapriamo Auschwitz e mandiamo Auschwitz riaperto con tutti. Tu dici anche la gente in divisa, i nazisti, con tutte le cose. Cioè... No, mandiamo i Rom, solo i Rom. No, ho capito, ma qualcuno deve azionare le macchine. Cioè, deve azionare. Certo. Chi sono quelli che azionano le macchine ad Auschwitz? I polacchi, la polizia polacca, noi, lei, vuole fare lei l'ufficiale? Militari. Ma militari di chi? Di quale nazione? Militari italiani. Ad Auschwitz. Io ho capito, Parenzo, voglio capire bene quello che è in testa, per questo chiedo, no? Certo. Cioè militari italiani, certo, capito? Rispondo pure certo. Militari italiani vanno ad Auschwitz, riaprono Auschwitz, riaprono forni, tutto quanto, portiamo i Rom lì e che poi che facciamo? Li bruciamo. Così, semplice. E pure Parenzo? Beh, se è il caso sì, perché voglio dire, se ha fatto qualche lui è d'accordo con i Rom, se che fanno bene i Rom. Mentre qui però ragazzi questo qua è un caso è la patologia fanno i padroni dell'Italia perché fanno però la psicopatia non rubano, stuprano, ammazzano la gente, stuprano, tutto normale. No, tutto normale. Io ho mai sostenuto una ma non c'è bisogno che parlo neanche. Sì, no, ma infatti chiedo. Ciao Stanislao, direi che hai raggiunto il massimo. Richiudiamo ciao. Il tappo della fogna. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. La Zanzara. Start to feel. è insopportabile, ma per favore Maretto, ti prego, ritorna in te, ritorna in te. Allora, caro David, abbiamo con noi una signora che ieri ci ha chiamato perché dopo che io ho detto una cosa su Vincenzo De Luca, sul sindaco di Salerno e candidato alla regione Campania, e questo signore è l'uomo che ha creato il caso, diciamo a sua insaputa, diciamo il caso De Luca, cioè l'uomo che è al centro, esatto, l'uomo che è al centro dello scandalo tra virgolette De Luca, della condanna eccetera eccetera. Si chiama Alberto Di Lorenzo ed è un dirigente del comune di Salerno. Buonasera, buonasera Di Lorenzo, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Allora, lei ieri ha sentito una cosa che ho detto e ci ha chiamato, ricostruiamo un po' quello che è avvenuto, per correggermi. Che stupidaggine ho detto, se ho detto una stupidaggine? No, non, lei ha detto un'imprecisione, lei era al telefono, credo, con Chicco Testa. Sì, sì. E a un certo punto, in risposta a una domanda di Chicco Testa, insomma, sì, nell'ambito, sì, del discorso, lei ha detto se l'è nominato perché è amico suo. Sì. Beh, questo non risponde al vero, per cui mi sembrava corretto darle questa informazione. Sì, no, io in realtà volevo dire un'altra cosa. Ho detto, sì, siccome Testa dice vabbè, la condanna di De Luca è una condanna per una cosa di poco conto, per una questione linguistica, adesso non so se abbia usato questa espressione, io ho detto nelle motivazioni della condanna di primo grado che sono uscite, in realtà non si parla di questa, si parla del fatto che lui abbia voluto favorire un amico, in realtà non è un amico, una persona di sua fiducia, diciamo, no? Lei è amico di, sì, De Luca? Certo. No, non posso qualificarmi amico suo. Cioè non ha un rapporto di amicizia, ha un rapporto solo professionale, avendolo conosciuto chiaramente come dirigente del comune di Salerno, sbaglio? Un rapporto, sì, di stima e di ammirazione per la sua, ecco, attività, per la sua azione amministrativa. Certo, lei voterà De Luca, immagino. Assolutamente sì. Allora, la questione è molto semplice però, perché De Luca insiste nel dire più volte, a proposito di questa condanna, che lui è stato condannato per una questione linguistica, per un reato linguistico, cioè per averle voluto dare una qualifica di project manager, credo, mentre questa qualifica in realtà non si poteva dare perché non esisteva. Per lei è così? È davvero così? Cioè si tratta di una condanna per un problema linguistico? Guardi, è così, non solo per me, la cosa è emersa in sede di dibattimento. Io le dico che questo processo, che è durato nella fase dibattimentale, quindi quasi 3 anni, nonostante le nostre accelerazioni, perché noi non ci siamo mai sottratti a questo, sì, processo, è emerso con grande chiarezza che un analogo incarico avuto qualche mese più tardi, sì, che per ragioni di opportunità naturalmente non abbiamo denominato project manager, perché nel frattempo erano partite, sì, le indagini della procura. E come l'avete chiamato invece? L'abbiamo chiamato coordinatore. Cioè se De Luca l'avesse nominata coordinatore, era credo per una commissione sul termovalorizzatore, e invece di project manager non ci sarebbe stato nulla. Assolutamente no, e la cosa è emersa in dibattimento. Sì, sarà pure emersa in dibattimento, mi scusi Di Lorenzo, sarà anche emersa in dibattimento, ma i giudici del Tribunale di Salerno successivamente hanno detto che era una posizione totalmente inventata, De Luca si è inventato una posizione apicale con conseguente riconoscimento di una più sostanziosa retribuzione, cioè per pagarla di più in sostanza si è inventato una posizione che non esisteva, ed era una nomina immotivata, questo hanno detto i giudici dopo, io quello leggo. Sì, vabbè, tutto il rispetto per i giudici, io naturalmente sto lavorando al ricorso in appello. No, ma certo, su questo non c'è. Certo. Ma lei è stato condannato pure o no? Certo, insieme con lui. A quanto è stato condannato? Un anno? Un anno pena sospesa. Un anno pena sospesa. Un anno per quale reato? Anche lei abuso d'ufficio? Abuso d'ufficio, sì. Sì. In realtà, anche per lei è demenziale la condanna, dunque? Guardi, io non mi permetto di definire demenziale una condanna. Beh, De Luca questo ha fatto. Vabbè, non lo so, io non l'ho mai sentito proferire questo termine. Quello che so è che noi abbiamo pensato, allora quando il responsabile del procedimento, che è un ingegnere responsabile, sì, del progetto, ha proposto a De Luca la mia nomina project manager, in quanto mi riconosce evidentemente come dire, qualità professionali tali da poter ricoprire un incarico di coordinamento, è stato usato questo termine poiché nel nuovo panorama dei lavori pubblici si affaccia sempre più prepotentemente questa figura, pertanto si è denominato così, però, sovrapponibile a una... Però scusi, una, sarà anche questo, però i giudici, ripeto, leggo qui dal Fatto Quotidiano che riporta le motivazioni, sottolineano l'inesistenza della figura di questo project manager, la totale assenza di motivazione, tanto che poi la nomina è sparita dal sito web, sulla necessità della nomina, la scelta della persona nominata, la falsità delle giustificazioni postume, il fatto che lei andava sicuramente a guadagnare di più e dunque si è inventato una posizione apicale con conseguente riconoscimento di una più sostanziosa retribuzione. Guardi, ma questo è vero o no? Cioè è vero che lei avrebbe guadagnato di più o ha guadagnato di più? Se posso spiegare, io ho guadagnato 8.000 euro per un anno e mezzo di lavoro e la cosa è stata ampiamente descritta anche nella sentenza dove i giudici hanno riconosciuto il lavoro svolto, tuttavia parlano di questa... Ma c'è stato un accanimento, questo voglio dire, c'è stato un accanimento nei confronti di De Luca, secondo lei? Me lo dica chiaramente. No, io penso di no, le sentenze non si accaniscono. Vabbè, lei adesso si sta anche difendendo, per cui un attimo solo che c'è la pubblicità e poi torno con lei. Alberto Di Lorenzo è l'uomo in sostanza, per questo lo stiamo facendo parlare qui alla Zanzara, che ha provocato tutto questo casino pazzesco, non si sa lunedì se verrà eletto De Luca, e ovviamente noi non lo sappiamo, cosa può accadere. Renzi probabilmente deve mettere un provvedimento di sospensione, eccetera, eccetera. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La Zanzara. Sì, ma dai, fatti bravi. Fatti bravi. I know you've been out running. When you stand on your running, run to me. Allora, Alberto Di Lorenzo è il dirigente del Comune di Salerno che ha sostanzialmente creato, ovviamente non per colpa sua, il caso De Luca. È stato condannato a un anno per abuso d'ufficio insieme a De Luca, sta facendo appello ed è l'uomo cui De Luca ha dato quell'incarico con quella firma, chiamandolo project manager, e invece non si poteva fare secondo la procura, secondo i giudici. Di Lorenzo, io voglio capire una cosa, ma lei si pente di qualcosa? Cioè nei confronti di De Luca che mi dispiace moltissimo, ma non posso pentirmi di una cosa che ho fatto in assoluta buona fede senza pensare che potesse costituire reato. Anche perché quando lei parla di posizione inventata, se no, io non parlo io, lo dicono i giudici, certo, è riportato nella sentenza. Appunto. Noi riteniamo invece, e la cosa per la verità è emersa anche in più parti del dibattimento, non si tratta di un'invenzione. Però quello è la difesa, certo. No, mi scusi, non, questo è un dato oggettivo quello che le sto dicendo. Sarà oggettivo. La figura del project manager non è prevista dall'ordinamento dei lavori pubblici, in questo senso è inventata. Ma l'attività che svolge il project manager è prevista e come dall'ordinamento. Io voglio capire però se secondo lei c'è stata una persecuzione nei confronti, cioè i giudici hanno voluto colpire, altrimenti non si spiega se è tutto così surreale, perché De Luca sostanzialmente dice che è stato condannato per un reato linguistico, cioè ci deve essere dietro una specie di complotto contro di lui o no? Io sottoscrivo pienamente quello che De Luca denomina reato linguistico, ma sono assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di persecuzione. Secondo lei non è un perseguitato? Allora, i giudici perché si sono inventati questa cosa, secondo lei, questa inchiesta? Non l'hanno inventata, la vedono diversamente. Noi ci andremo a difendere, nel frattempo paghiamo le conseguenze. Senta, ma lei accetterebbe un incarico alla regione se fosse eletto De Luca? Perché no? Mi scusi, in che senso? Cioè, se fosse eletto De Luca? Con De Luca accetterebbe un incarico alla regione? Cioè, tornerebbe a lavorare con... Io sarei onorato di lavorare ancora con De Luca, ma non credo che questo sia all'ordine del giorno. No, vabbè. Ho intenzione di cambiare lavoro, quindi sto... Cioè di che cosa? Se ne vuole andare dal Comune di Salerno? Credo di sì, quando questa cosa sarà risolta si dimetterà da dirigente comunale. Non credo di avere più la serenità per poter continuare a svolgere questo lavoro. Se mi dà un minuto le spiego anche perché. Perché io credo, ma naturalmente il mio punto di vista, che questa sentenza abbia una matrice formalista più che sostanzialista, perché nel momento in cui i giudici dicono ok, il lavoro è stato fatto, siamo d'accordo e lo elenca, sono anche stato al centro di tutta l'operazione, benissimo, allora? Questo dice la sentenza, ma la figura non esisteva, quindi è un aspetto formale, non sostanziale. No, beh, ho capito, ho capito. Per cui io sono pericolosissimo, perché siccome lavoro così, non so lavorare diversamente. Cioè, lei dice, in Italia non è più possibile lavorare, lei dice. Alla luce di questa sentenza è molto, ma molto complicato. È molto complicato lavorare in una città, eccetera, eccetera, e fare dei progetti, dice. Sì, è molto complicato. Senta, lavorare, ma ha ragione De Luca e anche Renzi quando dicono che alla fine le elezioni spazzeranno via tutto, è il popolo che decide. Cioè, il popolo decide anche se uno è condannato, il popolo decide se puoi restare o no. Se l'avesse detto Berlusconi sarebbe successo un casino, diciamo la verità. Cioè, Guardi, io non le so dare questa valutazione, io non ho mai fatto politica, non lo so. Però quello che so è che la gente vota per le persone di cui si fida istintivamente, ma quello sì, d'accordo, al di là delle convenzioni, quello d'accordo, dai. E poi le misure sul campo, De Luca è uno ampiamente misurato. Secondo lei è un fenomeno della politica, è un numero uno? Secondo me è un buon amministratore, un ottimo amministratore, è quello che ci vuole per la nostra terra. Grazie Di Lorenzo, grazie, arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Saluti. Andiamo a Torino, Francesco, vai, 800 24 00 24. Abbiamo preso un po' di pausa da questa vicenda dei Rom, da questa vicenda dei Rom. Francesco, vai. Ciao, innanzitutto volevo dire una cosa a parenza, che è un gran coglione, lecca palle del PD schifoso, mi una persona obrobriosa. A tutti i suoi cari. Come? Dico, mi saluti a casa tutti i suoi cari. Con certo, anche lei, con anche lei, quale lei si rivolge. Vai, Francesco, vai, continua. Vai, perché vuole capire? Non ho capito. Rom, scusa, una cosa sui Rom. Innanzitutto, non bisogna guardare che siano Rom, neri. L'importante è che il problema è che in Italia non ci sono delle leggi chiare. Basterebbe fare delle leggi chiare e farle rispettare, punto e basta, senza fare tutta questa polemica. Sulla vabbè, razza. Ma fammi capire a cosa ti riferisci. Alla vicenda di oggi. La vicenda di ieri sera è una vicenda ovviamente molto grave. È una vicenda molto grave. È grave che il fatto che uno non si sia fermato l'altro della polizia. Che sì, ma un sacco di italiani non si fermano, cioè, non è infatti, che... Bravo, infatti, meno male. Ma... Infatti cioè, non è un problema di Rom, piemontesi, meridionali. Oh, il problema male. È delle leggi. Vero Parenzo? Bravo, idiota, sei un idiota. Ma perché gli hai dato del coglione? Ma perché gli hai dato del coglione? Sei un idiota, ma è un leccapalle. È un leccapalle. È un leccapalle del PD. Lei ne sa qualcosa, evidentemente. È un leccapalle del PD. È un leccapalle. Sono stato il primo a dire degli impresentabili. Indipendentemente dalla parte di chi. Il potere va sempre criticato. Grazie, Francesco. Simone da Padova. Simone, vai. Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Volevo intervenire sul discorso degli zingari. Credo che in Italia ci sia troppo buonismo e demagogismo che ci ha portato questo paese demagogia, a diventare un cesso mondiale. Un cesso mondiale, sì, poi? Sì. Allora, la soluzione, io vivo da molti anni a Padova, ma sono di Nuoro, Sardegna. Sì. Siamo intervenuti, cioè siamo, i miei concittadini intervennero due volte, dopo aver fatto vari reclami al prefetto di Nuoro, appunto. Allora, nell'85 sono andati 5 volte dal prefetto, il prefetto ha detto abbiate pazienza, finché un bel numero di miei concittadini non si sono rotti le palle, armati di bastoni, rastrelli e quant'altro, e costrinsero questa gentaglia alla fuga. E dunque? Mentre 2 anni fa, sempre i miei concittadini, dopo essere andati varie volte dal prefetto, hanno dato fuoco all'accampamento zingaro. Vabbè, dopo dunque... che gli era stato dato la zona industriale di Nuoro, che è molto ampia, c'è un prato molto ampio, questi qua hanno ridotto, allora sporcavano tutto. Il prato, sporcavano le vie cittadine, mettevano le tangenti del cazzo per far passare i miei concittadini nelle strade, finché non si sono rotti le palle e sono intervenuti in maniera dura. Perché purtroppo con questa gentaglia di merda bisogna mostrare le unghie e i denti, perché col buonismo non si ottiene un cazzo. E dunque che cosa bisogna fare con i Rom? Mandarli via con la forza, perché la parola nomadi vuol dire che girano, sono itineranti. Cioè, tu dici, siccome questi bastardi si sono stanziati e non se ne vogliono andare. Tu innanzitutto sono bastardi, tu hai detto. Lo sono, gente che ruba, che sfrutta, che truffa, che addestra i bambini a rubare, che cosa sono secondo lei? E che ne so, l'hai detto tu, bastardi, mica lo dico io. No, no, cioè, no, lo dico, lo ribadisco, lo dico anche con orgoglio. Per me andrebbero eliminati dalla faccia della terra. Ma in che modo eliminati dalla faccia della terra, scusami? Allora, prima gliele so propongono con le buone, ma siccome questi qua la parola educazione non sono nemmeno capaci di trovarla nel vocabolario, allora si interviene con la forza, perché purtroppo stiamo parlando di un caso di cronaca drammatico, brutale, incredibile, che nessuno di noi men che meno io, che nonostante gli idioti che continuano a dire cosa dirai, dico che quelli sono dei criminali. Tutto il resto che è stato costruito, ma non difendo un cavolo di nessuno, salame, idiota. L'unica cosa che dico è che a fronte di questo, delle pretese, calmiamoci, perché io non ho iniziato ad offenderti. Calmiamoci, calmiamoci. Allora, tutti, a Padova, nella tua città dove vivo anch'io, fanno quello tutti che cazzo gli pare. E glielo dica Bitonci. Più gliele dici con le buone, e più si comportano in maniera prepotente. E dunque? Allora, io credo che, primo, i concittadini del signor Parenzo dovrebbero fare un trapianto di testicoli e tirare fuori un minimo di coraggio contro questa gentaglia. Sì, ma fare perché cosa? Tu dici Padova, tirare fuori i testicoli? Padova è un cesso. Guardi, ci d'accordo, sono io voglio capire una cosa. E non mi sembra, Simone, così. Voglio capire una cosa. Dunque, la conseguenza è che cosa? Fare cosa? Questo che voglio capire. Lei dice eliminarli tutti. Come? Ucciderli? Io poi... No, ucciderli no. So, per quanto schifosi siano, sono sempre esseri umani. Beh, ma, per quanto... certo. Allora, visto che a parlamentare non si risolve un cazzo, mandarli via. Questo è il risultato di mesi e mesi di buon anno di Salvini. Questo è il risultato. Vediamo se non si levano dai coglioni. Questo è il risultato. Grazie. Risultato. Pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Allora, intanto andiamo a Roma, Stefano, 800 24 00 24. Molta violenza questa sera, Parenzo, molti interventi violentissimi contro i Rom, forni crematori, uccisioni, esilio, buon anno che ha detto che bisogna bruciare i campi Rom con i Rom fogne, fuori. Fogne. Dopo quello che è successo a Roma ieri sera, cioè dopo questo incidente, dopo una macchina guidata... Hai usato una parola cosa? Chiave, cioè? Incidente. Incidente, sì, però perché non bisogna... altrimenti dovremmo teorizzare che tutti i Rom sono... cioè quei drammi come questo, no, quanti ce ne sono stati però, nella cronaca? Sì, sì, non c'è dubbio. Di uno che non si ferma un altro. No, ma... questi sono dei criminali. Criminali. Sì, sono criminali. La stessa famiglia dice che sono dei criminali, la stessa bravo famiglia. L'abbiamo detto alle 20:14. Detto questo, come al solito e non a caso, ritornano in superficie di fronte a una cosa di bravo questo tipo tutti la i problemi, merda. Vabbè, anche la merda. Merda, ma tutti la merda i problemi. Che chiama? Aspetta. Tutti, io aspetto, tutti i problemi. Ma hanno detto di tutto, aspetta. No, tutti i problemi che ci sono tra sì, la comunità. Il frutto di queste feci sono venute a galla in questa trasmissione oggi. Queste feci enormi che mi hanno vabbè, riempito allora... il naso di puzzo. Sono frutto di una campagna di odio, sì, di odio sdoganata da alcuni signori politici che per primi hanno usato questo linguaggio. Allora, Salvini oggi ha ripetuto: raderemo al suolo i maledetti campi Rom, con le ruspi maledetti campi Rom. C'è un signore, gli amici di Radio Cusano Campus, ottimi, devo dire ottimi. Tu non conosci Radio Cusano, ma tu non sai un cazzo, amico mio. Qui c'è gente che fa roba seria ogni giorno, roba di notizie, interviste importanti, rompono i coglioni. Scusa agli amici di Radio Cusano. No, devi chiedere scusa, sì. Gli amici di Radio Cusano Campus hanno intervistato un signore che si chiama Casadio ed è uno dei capi dei Sinti. Dei tu lo conosci, sarà amico tuo sicuramente. No, amico assolutamente il quale paragona Salvini a Hitler. Il signor Hitler. Beh, Hitler è morto, in Italia vogliono risuscitarlo. Dobbiamo ricordare che l'Italia ha... cioè Salvini sarebbe Hitler risorto, secondo lei? Ma, diciamo, non è che lui è risorto, ha risuscitato ancora lo spirito di Hitler in Italia, ecco. Resuscitato lo spirito di Hitler. Ti voglio dire Italia una cosa in più. Ma oggi dai, i Rom per bene, che era questo qua? Arduini, forse la voce di Roberta Arduini. Oggi i Rom per bene sono in pericolo e ti spiego perché, se vuoi. I Rom per bene potrebbe essere anche un'astrazione. Sono in pericolo. Comunque, i Rom oggi sono in pericolo perché si sta scatenando ormai. Cioè, tu dici più che del c'è solito. La caccia dopo a Rom, dici, la caccia a Rom. Beh, il rischio c'è oggi. Sì, non esageriamo, dai. No, tu. No, su questo sono molto serio. Dopo quello che abbiamo sentito oggi, già qualcosa ne avevamo avuto un assaggio nel passato, ma oggi più che mai, e sono molto serio, mi sento di dirti che se per caso domani o dopodomani, Dio non voglia, dovessimo leggere sul Messaggero, sul da qualche parte, che qualcuno ha dato fuoco a un campo, beh, io purtroppo non mi stupirei. Te lo dico. No, può succedere un cazzo. Ma quello che sta montando in questo momento è esattamente. Comunque, questo. Il signore di prima che avete sentito è Davide Casadio, presidente dell'associazione Sinti e Rom Italia, il quale ha paragonato Salvini a Hitler, dicendo che sta facendo rievocare il periodo hitleriano, no? C'è qualche somiglianza, dicendo che era della solita. La gente può dire che vanno a bruciare, che ci vogliono i forni crematori. Detto, e il signor Casadio non può fare un paragone. Detto, tutti possono, tutti no, ma qui perché sennò cioè, si ci stupisce di tutto e non ci si stupisce che un idiota, più di un idiota, chiami per dire forni saluta, crematori. Saluta i signori di Radio Cusano Campus. Saluta subito, saluta ma i signori. No, ma li saluto per carità. Traffico. Tu che fai quando vai a dormire? I sogni traffico. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta La Zanzara. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Oh, Razzi è partito per la Corea, ragazzi, eh? Grande partenza, grande missione. Qua tutto l'elenco dei partecipanti, domani daremo il dettaglio. Tutto l'elenco dei partecipanti alla nuova missione coreana. Sì, dovevo andare anch'io, come cazzo facevi la zanzara? Questo è stato quello che mi ha frenato. Ma beh, se tu avessi organizzato, perché non me l'hai detto, se tu avessi organizzato. Detto sei, no, non me l'hai detto. Se tu agitato, avessi. No, ecco, la notizia è questa. Andrò invece a ottobre, con più tempo. No, per ottobre non andrai da nessuna parte. Andrò ad ottobre. Ma quando mai? In un bellissimo viaggio in Corea, figuriamoci. No, ci sarà anche. No, seguirò in diretta perché ci sarà, sì, peraltro, sicuro, una cerimonia. Tu lo sai che ore sono? Tu sai che ore sono quando vai in Corea? Credo no, sei voglio ore prima o dopo. No, sono sei ore dopo, cioè praticamente sono le 3 di mattina. Da beh, dove meglio cazzo trasmetti? Ottimo, ma dai, bello. Ma non dire cazzate, dai. Meglio, ottimo. Non dire cazzate, non si sente una mazza dalla Corea, non dire minchiata, non si può fare, fisso. Dai. Non si può fare. Oh, l'altro giorno ho sentito delle parole. Beh, aspetta, aspetta, prima dobbiamo andare a Stefano Roma, vai Stefano. Pronto, Stefano, finalmente, dimmi. Ciao. Allora, intanto io non ti chiamo per queste cose sui zingari, perché tanti zingari è ancora aperta. Insieme a Parenzo li famo un mucchio, è meglio. Un ascolta, mucchio che vuol dire famo perché un mucchio? Che vuol dire famo come ma un mucchio? Ma mette le mani, la pesce puzza dalla cava, stai troppo in alto, problema, non ne potremmo parlare, lasciamo perdere. No, ma bene, okay, il pesce puzza dalla cava, non ne potremmo parlare, no. Stefano, ma dimmi una cosa. Ma che dai, ma di che vuoi parlare? Ma dai, su, ma certo che sta bene ai poveri, sta bene a tutti quanti, ma chi ci vuoi mettere le mani? Cioè sta bene a tutti, l'emergenza Rom sta bene a tutti, dici? Ma sì, sta bene a quelli che comandano, e noi che potremmo fare? Ci potremmo incazzarci, se spogliamo ti ringrazio e ci dà lo spazio per spogliare. Però Stefano, aspetta, però, sei con l'auricolare, che c'hai? Sono una cuffia professionale. Lo so, ho capito, amico mio, però l'ho cambiate tutte. Avrai pure una cuffia professionale, però non si sente. Che devo fare? La devo cambiare? Così va bene, vai, così va bene. Oh, allora, io invece ti chiamavo per una cosa, sono due giorni che me ne stavo in attesa. Dimmi. Perché tu avevi detto che non eri contro i matrimoni gay. No, io sono a favore del matrimonio, del matrimonio proprio, del matrimonio. Uguale matrimonio nella Costituzione, il matrimonio. Però cioè, tutto sarebbe niente, più sarebbe, con le poligamie. Beh, no, l'omosessualità e la poligamia sono due cose diverse, abbi pazienza. Perché tu, allora, forse, vediamo un po'. Sto io, marito e 10 mogli, quelle sono tutte lesbiche, che sono. No, vabbè, ho capito, aspetta, dai, fermo. Te lascio questa riflessione. No, ma non mi lasci con nessuna riflessione, Stefano, di che stiamo parlando? Cioè, la poligamia è una cosa. La poligamia è una cosa. Cioè, questo è quello che pensa Giovanardi, che l'omosessualità è uguale alla poligamia. Cioè, che è la stessa. No, cioè, che se si ammette l'omosessualità, allora si arriva pure ad ammettere la poligamia. Ma perché? Ma scusatemi, l'amore tra. Ma non è vero, l'amore tra due persone è diverso dalla poligamia. Dello stesso sesso, di un sesso diverso, eccetera. È una cosa un po' diversa tra. Perché perché devi ammettare? E perché quelle che stanno in poligamia non sono tutte dello stesso sesso, ce ne stanno 10 dello stesso sesso. La poligamia è una cosa diversa. La poligamia è il fatto che uno si può sposare, un uomo si può sposare, diciamo, con più donne innanzitutto. Poi c'è il poligamia. Una donna con più uomini, anche se non esiste. Ma una donna con più uomini, eccetera, eccetera. Sì, ma non è che stanno tutti insieme poi, quello è un altro discorso. Quella, quella è la mucchiata, è diversa la cosa. No, no, no, la poligamia stanno tutti insieme, stanno come gli pare. Sì, d'accordo. No, non inventa niente, le mogli stanno tutti insieme. Ma non lo so se le mogli possono anche stare in case diverse, non è detto che siano nella stessa casa. Potrebbero, ma guarda che. Però Stefano, ma che c'entra con l'omosessualità? Cosa c'entra con l'omosessualità? Non c'entra niente, ma scusa. Ma sei tu che le paragonate, scusa. Le persone dello stesso sesso. Allora. Giusto? Nella stessa famiglia, no, persone ma dello non stesso ecco, sesso. Ma non è che ne stanno addirittura 20. No, però scusa, abbi pazienza, veramente Parenzo, glielo fai capire tu un attimo. Ma lascia perdere Parenzo, ma che te fa capire Parenzo? Ora ancora devi capire come si campa. Ma lascia perdere Parenzo, capisci un cazzo. Lascia perdere. Allora, tu mi devi dire, nel matrimonio gay ci sono persone dello stesso sesso. Giusto? Allora? Nella poligamia c'è sta uno che è del sesso, ce ne stanno tanti che sono dello stesso sesso. Ma, sono cose diverse, Stefano. L'amore tra due persone e la poligamia. Diverse. Ma non ti dico che sono uguali, ma ci mancherebbe. Una si chiama poligamia, una allora? Si chiama matrimonio. E allora gay. Tu dici che ma è un'estensione del matrimonio gay. Ah, tu dici che se si ammette quello poi si deve ammettere anche la poligamia. Ma guarda, tanto, però francamente non quello, mi risulta che sia così. Ammetti quell'altro, perché no? Ma scusa, ma che non sono tutte lesbiche quelle che stanno là. Ma chi, ha detto che, a parte che non è vero, cioè se uno ha più donne, più mogli, non è detto che queste mogli siano lesbiche, che scopino tra di loro, scusa. Ma chi l'ha detto? Ma, che c'entra? È sotto la stessa famiglia, persone dello stesso sesso. Ma dai, su, non dire cazzate. Io sapere che cacchio vuoi di te. Dai, dimmi, Stefano, dai, sono lo stesso sesso. Ma non è così. Stato di famiglia. Non è così, vabbè. Vabbè, ciao. Capisco la provocazione, ma non è così, ciao. Allora, intanto il padre del ragazzo ricercato per l'incidente al quartiere Battistini a Roma pare che abbia confessato: sono stato io, mio figlio non c'entra, però gli inquirenti non gli credono. Gli inquirenti non gli credono. Ero ubriachissimo, non mi ricordo niente, guarda come sto. Ieri ho preso la macchina e sono andato a bere. Mi sono fermato in un bar di Torrevecchia, quartiere di Roma, e ho ordinato una grappa, una birra e una bottiglietta d'acqua. Le ho scolate e mi sono rimesso in macchina. Ho visto che dietro avevo la polizia. Ho premuto sull'acceleratore, non ho la patente, me l'hanno ritirata. Non volevo che mi beccassero di nuovo. Mi ricordo solo che a un certo punto ho sbattuto la testa e mi colava il sangue sulla faccia. Vedevo tutto sfocato. Però ripeto, gli inquirenti non gli credono, non gli credono. Voglio riuscire a capire se becchiamo Emilio Fede, eh? Emilio Fede. Vabbè. Emilio, gli voglio chiedere una cosa, perché Vespa lo sai che cosa ha fatto, anzi Berlusconi lo ha confuso con voleva chiamare Vespa, ma ha detto signor Fede? Pronto? Emilio? Sì, caro, dimmi. Come stai? Molto bene. Berlusconi che ha scambiato Vespa per Fede. Oh, l'ha offeso così? Come, dispiace. Mi sento un po' arrabbiato però. Come ma un che po'... arrabbiato, figuriamoci. Ci mancherebbe altro. Sono incazzato, sai con cosa? Con il sindaco di Roma che deve andare a casa. Perché Roma è impraticabile, e tutto San Pietrini, buche, ma lasci perdere questa città, no? Non è degno. Roma è ridotta una pezza da piedi, deve andare a fare in culo. Anzi, dico io, grazie a Striscia e grazie ai miei amici che hanno fatto eco, che figura di merda. Ma chi? In questo caso il sindaco di Roma. Io sto andando alla stazione per andare a Napoli. Sì. Percorro Piazza Venezia, che è la piazza storica di Roma, sono in questo momento una propria diretta di fronte al Quirinale, e tutto un San Pietrino. Vabbè, i San Pietrini ci sono sempre stati, San Pietrini a Roma, però Emilio. Ho capito, ma questi sono quelli cinesi, lo so, hanno preso i San Pietrini. Comunque Ignazio Marino non deve governare Roma. non deve governare Roma. Lo sai che secondo me non si è accorto che eravamo noi? Sì, sembrava un po' distaccato. Come non si è accorto che poi adesso è caduta la linea, ma non si è accorto che eravamo noi. Ho avuto questo. Perché ha cominciato a scatenarsi contro Marino. Poi chi gliene frega a Emilio Fede di Roma, di Marino, di San Pietrini? No? È strano, è strano. Il tono della voce era strano. Non si è accorto che eravamo noi. Adesso proviamo a richiamarlo, perché mi sa che gli si è scaricato il cellulare. Fabrizio Milano, vai Fabrizio, 800 24 00 24. Rom, mi sembra, no Fabrizio? Sì, ciao a tutti. Allora, racconto questo aneddoto. Quando avevo 10-12 anni, eravamo giù che giocavamo a pallone con tre miei amici. A un certo momento sono arrivati due ragazzini zingari. E noi non gli abbiamo dato la palla, loro volevano la palla. A un certo momento ci hanno puntato il coltello, gli abbiamo dato la palla. Io sono andato da mia madre piangendo, e dietro casa nostra c'era la caserma dei carabinieri. Gli altri miei amici sono andati all'osservatorio. Fatto sta se nel momento in cui noi siamo andati dai carabinieri si era già creata una piccola folla. E niente, siamo andati là, alla fine ci hanno ridato il pallone dicendo che non erano loro. Gli hanno detto: guardi, quello era il ragazzo. Però, con Fabrizio, coltello. Abbi pazienza. Che avrà avuto la mia età già andava in giro col coltello. Cioè, questo tu stai qua dicendo che c'è un bambino rom di 10 anni che andava in giro col coltello e che sì, tu sei stato aggredito. Beh, ragazzi, però nelle periferie italiane è pieno di scugnizie, non solo, anche a Quartogiaro, a Milano, dappertutto, che magari vanno in giro con qualche arma. Tu dici dà più fastidio perché sono rom, non ho capito. Ma no, io dei rom ti racconto che io andavo in giro col pallone, no? E loro andavano in giro col coltello. Fermi tutti. Questo è quanto. Pubblicità. Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, la follia animalista, in questo caso la follia vegetariana. Cosa succede a Bergamo? La donna è macrobiotica, la madre. Lui sostanzialmente carnivoro, cioè secondo me normale, carnivoro, uno che mangia la carne insieme ad altre cose. No, lei invece è macrobiotica, vegetariana, abituata a riso bollito e verdure, insomma, questa è la sostanza. Sono andati a finire in tribunale, questa però è anche colpa sua, anche colpa del carnivoro, per decidere l'alimentazione del figlio. Secondo me non è l'unico caso, cioè è pieno di famiglie in Italia in cui per dirimere queste questioni, che sono questioni ridicole, cioè quelle di come un bambino debba essere alimentato, vanno a finire in tribunale, intasando i tribunali. L'ex marito, siccome lei non gli voleva dare la carne, si è rivolto al tribunale come se fosse una cosa normale, no? Per chiedere al giudice di assumere, in mancanza di accordo tra i genitori, gli opportuni provvedimenti con riguardo al regime alimentare del minore. E il magistrato, sai cosa ha stabilito? Che la madre deve mettere in tavola la carne almeno una volta durante la settimana, mentre nel weekend il padre non deve proporla al figlio più di due volte. Ma come cazzo si fa a campare così? Ma dico, ma siete impazziti? Ma cosa andate in tribunale per far decidere al giudice quante volte può mangiare la carne il vostro bambino, quante volte deve mangiare le verdure e il riso? Ma dico, ma siete veramente alla follia o no? Come alla follia è questa associazione che ha promosso il boicottaggio del ristorante da Maurizio. Abbiamo già parlato dell'episodio del prefetto di Treviso che è stato allontanato dal locale perché aveva il cane in borsetta. Così si chiama il ristorante. Allora, un attivista del PD della zona di Cimadolmo, provincia di Treviso, e anche attivista della Lab, eccetera, eccetera, vuole boicottare il ristorante. Ma la follia. Ma ragazzi, su. Ragazzi, sì, ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Alla mazza caffè, no, alla frutta, alla mazza caffè. Oh, ma richiamiamo Fede intanto, richiamiamo Fede, dai. Ragazzi, fermi coi rom, Giuseppe da Bologna, Antonio da Savona, tutti sui rom, fermi lì, proviamo a richiamare Fede innanzitutto. Emilione Fede, è un sacco di tempo che non lo sentiamo. Non importa che sia conosciuto, ma io parlo civilmente con chi non mi insulta. Stavo dicendo veramente questo perché... Emilio, ma ti sei accorto che siamo noi o no? Che siete voi chi? Ma sono Cruciani, cazzo! Ma che razza di farabutto, vi avete ignorato per 8 mesi! Io vi querelo per abbandono di minore! Ma come abbandono di minore, Emilio? Di minorato, se mai, scusami, ma non riconosci neanche Parenzo e Cruciani. Non riconosci manco la voce, ma sei rincoglionito. Non riconosco la voce, sì, sarò rincoglionito, ma non tanto da non ricordarmi che da 9 settimane io vi rifugio. Scusa un attimo, partiamo da una cosa. Sì. Berlusconi che ha scambiato Vespa per te, e no, ma a parte quello che è un lap, forse la vecchiaia, dici Berlusconi? No, Berlusconi poi arriva, quando però Vespa ha detto, vabbè, la perdono, lui ha detto la vecchiaia, sì, allora dottor Fede ha replicato. Quello che mi stupisce è che io sono stato direttore di Vespa al TG. E poi ti ha fatte le scarpe però. Ma non è di scarpe o sandali o pantofole, io avrei risposto, ma io non mi rammarico perché Emilio Fede... Ma invece quello si è vergognato un po', Vespa si è un po' vergognato. Che lui abbia fatto oddio, ma che oddio, non invocare Dio. Lui è un bravissimo professionista, un bravissimo conduttore, ma come giornalista lui a me non mi porta neanche le pantofole. Ha detto scusa, non ha mai fatto, sì, faceva l'inviato, è un bravissimo, io non sarei capace di fare il suo lavoro. Però tu dici come giornalista non vale un cazzo. Non è che non vale un cazzo, sono due percorsi diversi. Cioè tu dici nettamente sei su un altro livello, dici. Senti, la mia storia è quella che è. Ma perché si è messo le mani nei capelli? Spiegami perché? Perché si è vergognato così di essere paragonato ad Emilio Fede? Spiegami. Ecco, bravo, io lo vorrei sapere. Chiediamoglielo un po', ma come mai? Spiegami. Te lo dico subito. Dimmelo. In tanti anni, in tante trasmissioni che ha fatto, nella storia della televisione, non si è mai sognato di invitarmi. E come mai? Ma, come, colpa, ma come, quella, mai? No? Come mai? Chi lo sa, fatevi una domanda. Ma no, ma dammi una risposta. Perché si è vergognato? Non ho capito perché si è vergognato. Adesso, che cosa c'è tra di voi? Perché non ti sopporta? Ma che non mi sopporta? Ma nessuno di quelli che vedono in me un protagonista, perché lo sono, mi sopporta. Ma certo, c'è una sorta di ignorarmi. Caro Bruno, te lo dico. Al posto tuo io avrei detto... Non c'è da vergognarsi. E invece? E invece? Collega. No, invece, oddio, ha scomodato pure il padre. Oddio. E c'erano gli applausi all'oddio oppure al fatto che sia stato menzionato. Ma lui si è vergognato, Emilio, si è vergognato. Era stizzito quasi. Ma che cazzo si vergogna? Cosa si vergogna? Di che cosa? Tante volte chiamavano me Bruno Vespa, lui chiamavano Emilio Fede, ma so, Bruno Fede, cioè vuol dire, spesso ci... Ma guarda, ti assicuro, guarda, credetemi, io trovo, sono allibito di fronte al gesto, per modo di dire. Allibito, sei allibito. Senti, ma Travaglio ha detto che sei un grande leccaculo, il più grande leccaculo di Berlusconi, che però è finito prima di Berlusconi. Sì, però ha detto che più leccaculo di me, però c'è Giuliano Ferrara. Sì. Travaglio dice delle cose intelligenti, condivisibili. Qualcuno cioè, io allora dillo, io sono un leccaculo di Berlusconi. Sono stato e sono un leccaculo di Berlusconi. E me ne vanto. Metaforicamente parlando, sì. Ma che devo dire? Sono un leccaculo? Sì, sono un leccaculo. Oh, ecco, diciamolo, sono un leccaculo. Vabbè, diciamolo. Sono un leccaculo e basta. Senti, ma è vero che hai ingaggiato dei pregiudicati per... Ma altra cazzata. Ma ti pare possibile? Così dicono i giudici e i capi d'accusa. Allora ti dico tutto, no? L'ha scritto Repubblica e io ho scritto a Ezio Mauro con molta correttezza. Beh, hai detto che è responsabile della tua rovina, Ezio Mauro, addirittura. Cioè, beh, dal punto di vista mediatico sì. Quando uno pubblica questa cosa che è chiaramente una stronzata, lui ha contribuito. Beh, i giudici stanno facendo delle indagini in cui tu praticamente viene fuori che tu hai a un certo punto assunto, cercato di assumere dei pregiudicati per far picchiare il famoso personal trainer là. Allora, ma ti pare possibile? Ma beh, tutto è possibile nella vita ormai. Ah, beh, certo, ma ti pare che assumo uno? Ma che ne so, Io se devo assumere qualcuno. Ma come va la vita? Dormi la notte? Da solo, sì. Da solo? No, sto scrivendo sto libro che non riesco che a fare. Palle questo libro. Che palle. Pannolone? Pannolone, non ancora. Non ancora. Sesso? Sesso, aspetta che devo ricordare. No, non ricordo. Mi chiedo ogni tanto, ma come è fatta? Non me lo ricordo più. Vabbè, ciao Emilio. Vi voglio bene. Ciao. Ricordatevi, ritiro ciao. La querela, eh. Sì, ritiro. Quale querela? Boh, che ne so. Ciao. Allora, mi annunciano che c'è un audio del Rom che si autodenuncia, il padre di uno di quelli che era ricercato, mi sembra, no? Audio dell'Huffington Post, di chi è? No, vabbè, della Stampa. Via. Allora io andavo a prendere, ero ubriaco da morire. Tu eri ubriaco? Ubriaco. Ho visto il chiave della macchina qua, era una Lancia. Ha preso la macchina della Lancia, dentro stavano. E mi ha messo, sono andato a prendere da bere qualcosa, sono andato lì, acqua fredda, sono andato girato di là e poi sono andato lì, mi ha fermato a acqua fredda a bar. Mi ha preso una grappa, che grappa acqua preso? E una birra. Andavo verso ho sentito che mi stavano dietro la sirena della E quindi ha cominciato a correre. Andavo come un matto. Ho fatto questo incidente su marciapiedi. Ho battuto una macchina avanti. Ho sceso, sono andato sulla fermata. Il sangue mi stava tutto. Gente, vogliamo chiamarti l'ambulanza. No. Vabbè, un ascoltatore, poi ho un ospite collegato, una persona che hai conosciuto, Parenzo, eh? Ah, molto bene. Io perché in questi giorni ho visto un sacco di pubblicità su come eliminare i topi. I topi o le tope? No, i topi, topi, no, le tope non bisogna eliminarle mai. Non lo so. Giuseppe da Bologna, veloce, Giuseppe, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Niente, io volevo parlare su questo fatto qua dei Rom. Sì, vai. Ragazzi, ormai abbiamo toccato il fondo. Siamo arrivati alla frutta. Perché permettiamo a questa gente in casa nostra di fare il cazzo che vogliono? È quello che io voterò Lega Nord, Matteo Salvini, e spero vivamente che lui faccia quello che sta promettendo. Questi campi rom non li vogliamo più in Italia. Forse per me, come la penso io, entrerei come entravano gli americani nei villaggi dei Viet Cong in Vietnam con i lanciafiamme. Cioè col napalm. Col napalm, bravo, sei d'accordo con me? No, col napalm non sono d'accordo. Che vanno smantellati, sono d'accordo. Col napalm ammazzi la persona, perché tu lo sai che si possono ammazzare delle persone, sì. Sì, ma ascoltami un attimo. Tu dici chi se ne frega, come li consideri dei rom? Io degli animali selvatici, basta, solo questo. Però Giuseppe, abbi pazienza, saranno pure delle persone di... ragionare. Cosa vuoi dirgli? Ma no, cosa vuoi dirgli? Abbi pazienza, ma cioè, cosa vuoi dirgli? Cioè, stai dicendo delle cose incredibili. Cioè, secondo te i rom sono dei selvaggi, sono delle bestie, degli animali? Bestie, sono delle. Anzi, la bestia è da rispettare di più, perché l'animale va rispettato. Il rom no, perché il rom beve, si ubriaca, fa le cazzate. Poi stiamo anche gli italiani bevono e si ubriaca, no? Cioè. Italiani non... vabbè, dai, pare. Il venerdì sera fuori dalle discoteche, le stragi del sabato sera, niente di tutto questo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, Giuseppe, ho capito. Ciao. Allora, tra l'altro molti hanno paragonato i rom ai topi, tanto per restare in argomento, cioè topi, animali, eccetera. Carla Delfino è con noi, buonasera. Buonasera, buonasera Parenzo, buonasera. Sicilianissima, salve, imprenditrice, cara, ideatrice di una roba che si chiama Scappa Topo. Io sto leggendo un sacco di pubblicità sui giornali, poi Parenzo l'ha incontrata e ho detto bisogna chiamare per forza questa signora. Perché sarà lui, sarà lui. Perché al TEDx, che è questa bellissima iniziativa e fa parlare tutti i più grandi del mondo. Io sono una piccola, però insomma ho parlato anch'io al TEDx. L'ho conosciuta grazie al dottor Lo Storto, che è il direttore generale della LUISS. Questo me ne sbatto le palle. Però scusa, signora Delfino, scusi, però, io voglio capire una cosa. Lei ha trovato una soluzione per uccidere i topi? Tramortire. No. Innanzitutto, lei come li consideri i topi? Guardi, allora, io sono sempre stata spaventata dai topi come molte donne. Ho avuto tanta paura dei topi. Però? Da quando li studio, ne ho un rispetto incredibile. Cioè lei rispetta i topi? Rispetto alla loro intelligenza, alla loro capacità di sopravvivenza, superare i nostri tentativi di ucciderli. La guerra fra gli uomini e topi è già stata vinta dai topi in una maniera incredibile. Abbiamo perso. Guardi, ci hanno vinto i topi. Le do soltanto un numero. Prima dell'invenzione di questi ultimi topicidi, il rapporto uomini-topi era due utopi, un uomo. Da quando noi li sterminiamo in modo selvaggio, il rapporto è 12 topi, un uomo. Cioè lei sta dicendo che fino adesso abbiamo sbagliato tutto e hanno vinto i topi? E adesso arriva... Non è che lo dico io, perché io sono l'ultima che arriva, lo dicono gli scienziati. Hanno vinto i topi, Parenzo. Certo. Ho parlato per un'ora con la dottoressa Delfino. Un'ora. Sì, perché è stato carinissimo, gentilissimo. Ma è rimasto affascinato io dalla Scappa Topo. Ne parlano tutti così male di David Parenzo. No, veramente non ne parla nessuno male. Parlano male di me, non di Parenzo. Io però voglio capire una cosa. Siccome ci sta dando una notizia ferale, io la voglio richiamare. È tardi stasera. Purtroppo abbiamo fatto casino, una giornata sbagliata con i rom. Cioè, hanno vinto i topi. Hanno vinto i topi. Ma con lo Scappa Topo, che è la sua invenzione, succede qualcosa o no? Allora, guardi, io poi la richiamo, però io voglio capire, lei ci può salvare? Io li ammazzo. Ho capito, quello però è un problema, perché bisogna eliminarli sti topi. No, allora guardi. Se lei uccide i topi, i topi che hanno una capacità di riproduzione incredibile, fra cui, per questo io alla LUISS ho parlato di... Allora, si riproducono in modo accelerato. Se noi non li uccidiamo, loro ritornano a far parte del ciclo vitale e verranno, diciamo, a mangiati dagli animali che li mangiano. Attenzione ragazzi, qui la storia è questa. Per eliminare i topi, e alla fine i topi vanno eliminati in qualche modo, comunque vanno tenerli lontani, bisogna sterminarli. Per ridurre, diciamo, la presenza, comunque per tenerli a bada, non bisogna eliminare, bisogna lasciarli vita, perché più li elimini loro rinascono e si moltiplicano. Ma poi c'è un altro problema, che loro sono diventati resistenti ai veleni. I veleni, che sono conditi con tante cose buone per loro, per loro sono diventati cibo. In Inghilterra gli sparano perché non riescono più ad ammazzarli con i veleni. Noi non ci rendiamo conto. È pazzesco. Sono stati banditi i veleni. No, ma la notizia per me è ferale, cioè i topi. Possiamo parlare quando vuole. No, i topi. Dottor Cruciani. I topi hanno vinto i topi. E con questa notizia, però, stasera chiudiamo, signora Delfino. Ci risentiamo. La cosa mi ha sconvolto. Hanno vinto i topi. A domani, 18:30. Ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Attento al DDT, sai? Radio 24. La passione si sente.